Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro quarto, versi 1-271. A Tebe si celebrano i riti orgiastici di Bacco. E invece Alcitoe, una figlia di Minia, depreca le orge del dio, spinge anzi la sua arroganza a negare che Bacco sia figlio di Giove. In quella impietà le sorelle le tengono mano. Il sacerdote ha disposto che si santifichi la festa e che, dispensate dal lavoro, serve e padrone si buttino addosso una pelle, sciolgano il nastro ai capelli, se li inghirlandino, tirsi con ancora le foglie brandiscano, predicendo che l'ira del dio sarebbe stata tremenda se offeso. Obbediscono suocere e nuore, ripongono tele, panieri e pennecchi lasciati a metà e bruciano incensi a Bacco, chiamandolo Bromio o Lieo o figlio del fuoco o nato più d'una volta da doppia madre, lui l'unico. O, lunga la lista, Niseo o Tioneo dai riccioli al vento o Leneo piantatore dell'uva che porta festa o Nictelio o padre Eleleo o Iacco o Euhan ti chiamano o con quant'altri epiteti libero ti hanno assegnato i popoli della Grecia. È così. La tua giovinezza è inesauribile. Sei ragazzo in eterno, il più ammirato, il più bello sei lassù nel cielo. Il tuo, se ti presenti senza le corna, è un viso di vergine. Hai soggiogato l'Oriente, fin dove l'India abbrunata si intinge nell'ultimo Gange. Scanni Penteo, tu, venerabile, scanni Licurgo armato di bipenne, sacrileghi entrambi, e versi nel mare, corpi tirreni, governi tu con briglie a colori una coppia di linci aggiogate, un codazzo e di battanti e di satiri ti segue, e il vecchio che puntella gambe che incespicano col bastone e non si regge in groppa a un asino gobbo. Dovunque passi tu, echeggia un baccano di giovani e insieme strilli di donne e tamburelli percossi con palmo di mano e bronzi cavi e flauti di bosso. Vieni, sereno e benevolo, imploran le donne di Ismeno assolvendo ai riti. Soltanto le figlie di Minia si tappano in casa a guastare la festa coi loro mestieri domestici fuori luogo. Chi carda la lana, chi torce i fili sul pollice, chi sta aggrappata al telaio e mette sotto le serve. E una, lasciando scorrer lo stame sul polpastrello, mentre le altre se la spassano in riti campati in aria, perché noi, devote a una dea molto meglio, non inganniamo l'onesto lavoro manuale con chiacchiere di sé assortite e a turno, per scongiurare che il tempo non passi mai, raccontiamo qualcosa a orecchi che non hanno nulla da fare. Tutte d'accordo. La pregano di cominciare lei. E lei ci pensa su, fin troppe ne sa. Si domanda se raccontare di te, sì, dercete di Babilonia, che mutasti sembiante tutta coperta di squame, così dicono in Palestina, ti aggiri per i pantani. O perché no di tua figlia che, assunta una veste di piume, trascorse i suoi ultimi anni in una candida torre, o della naiade che cambiava, col canto e con erbe magiche, giovani corpi in pesci muti finché non successe anche a lei, o magari dei candidi frutti d'un albero che, spruzzati di sangue, adesso son neri. Ha scelto, e sebbene la storia non sia così popolare, seguitando a filar la sua lana, attacca in questa maniera. Piramo e Tisbe, lui il più bello di tutti i ragazzi, lei fra le bellezze di tutto l'Oriente la più corteggiata, vivevano in case contigue, nella grande città che si dice Semiramide abbia cintato con mura di terracotta. Vicini di casa si accorgono l'una dell'altro, si parlano, col tempo monta l'amore e vogliono proprio sposarsi. Ma i genitori proibiscono, sebbene non possano proibire né all'uno né all'altra, di amarsi come due pazzi. Nessun confidente, si parlano solo accenni e segnali e la fiamma più cercano di coprirla, più coperta divampa. Era il muro in comune fra le due case rigato da una fessura sottile, difetto di costruzione di cui non si era accorto nessuno per secoli, cosa non scopre l'amore. L'avete scoperta voi, innamorati, per aprire alla voce una via ed imbucar di continuo, senza correre rischi, sussurri di tenerezza. Quante volte Tisbe di qua, in punta di piedi di là Piramo, han detto cogliendosi attorno il fiato di bocca. Muro schifoso, perché osteggi tanto gli amanti? Ti costerebbe troppo se ci abbracciassimo stretti, o almeno aprirti quel tanto da lasciare che passino i baci. E non dire che siamo ingrati, chi nega che ti dobbiamo lo spiraglio che fa arrivare parole all'orecchio adorato? Lamentatisi a vuoto così dalle due parti del muro, sul far della notte i due si salutano e stampano ognuno sulla propria parete baci non pervenuti. Poi, quando l'aurora del giorno dopo cancella il brillio della notte e i raggi del sole asciugan la guazza sui prati, i due convergono al solito posto e, in un bisbiglio leggero, dopo le solite lagne, decidono basta di eludere i portieri, tentar la sortita per entro il silenzio notturno e, una volta all'aperto, l'abitato lasciarselo dietro. Per non perdersi vagolando sulla distesa dei campi, convengono di trovarsi al sepolcro di Nino, acquattati sotto un albero. C'era in effetti di bacche bianche stracarico un gelso enorme sul bordo d'una sorgente gelata. E alla buon'ora la luce del giorno, che pare non voglia andarsene, affoga nel mare e dal mare sbuca la notte. Furtiva Tisbe dischiude il portone, esce nel buio eludendo i suoi cari, col viso velato guadagna la tomba e si mette a sedere sotto l'albero, come d'accordo, temeraria d'amore. Ma ecco, con le fauci che schiumano sangue di buoi appena sgozzati, una leonessa che vuol dissetarsi nell'acqua della vicina sorgente. Da lontano, al lume di luna, Tisbe babilonese la scorge e, con le gambe che tremano, imbuca una grotta nera, però nella fuga le cade il velo di dosso. La belva, sedata la sete con una abbondante bevuta, nel rintanarsi nel bosco l'indumento trova smarrito e lo straccia senza badare, con le zanne insanguinate. Nella polvere spessa vede di lì a poco inconfondibili orme di bestia feroce e sbianca tutto nel viso Piramo. E quando rinviene anche lo scialle macchiato di sangue, un'unica notte perderà, dice, due amanti. Lei che meritava, lei sì, una vita lunghissima, io che porto tutta la colpa. Io te, poverina, ti ho uccisa, che ti ho costretta a venire di notte in un posto orrendo, senza nemmeno precederti. Fatemi tutto a brandelli, sbranate a morsi feroci queste viscere scelleratissime, leoni voi tutti che avete la tana fra queste rocce. Ma invocare la morte è da vili. Raccoglie lo scialle di Tisbe, se lo porta con sé sotto l'ombra dell'albero convenuto e, coprendo di lacrime e baci quell'indumento adorato, adesso bevi, ti dice, un bel sorso del nostro sangue. La spada che aveva al fianco che fa? Se la pianta nel ventre. Poi subito, in punto di morte, la strappa dalla ferita che sfrigola e crolla riverso, schizza altissimo il sangue. Così, quando un tubo di piombo, molto usurato, si crepa, dal minuscolo foro fischiando schizza lontano lunghissimo un getto d'acqua che va flagellando l'aria. Tutte irrorate di morte, le infruttescenze dell'albero si abbuiano e le radici inzuppate di sangue tingono d'un colore di porpora le more sui rami. Ed ecco lei che, ancora spaurita per non mancare l'amante, torna indietro e lo cerca con gli occhi e col desiderio. Non vede l'ora di dirgli a che razza di rischi è scampata. Riconosce il posto e la sagoma ben nota dell'albero, ma la tinta di quelle more non le torna, si stesse sbagliando. Mentre è lì perplessa, si accorge di un corpo che trema e pulsa in una pozza di sangue. Indietreggia e col viso più bianco del bosso rabbrividisce, come tremola la superficie del mare, se rasentata da una brezza leggera leggera. Ma quando torna in sé e riconosce il suo amore, tempesta di colpi sonori le braccia che colpa non hanno, si strappa i capelli e, abbracciando quell'amatissimo corpo, colma la piaga di lacrime, mescola sangue e pianto, stampa di baci quel viso gelato e Piramo grida: «Ma cosa è successo? Chi ti ha portato via? Non rispondi, Piramo, è la tua Tisbe, amore mio, che ti chiama. Ascoltami e tira su quella testa così abbandonata». Al nome di Tisbe, lui alza gli occhi già spessi di morte e, vistala appena, subito li richiude. Lei riconosce il suo scialle, la guaina d'avorio senza la spada. Allora è stata lei, la tua mano, è stato l'amore ad ucciderti, poverino, dice. Ma se per questo ho anch'io mano ferma, ho amore anch'io, sarà lui ad affondarmi il colpo. Anche morto ti seguirò, passando per maledetta causa della tua fine, e compagna, solo la morte poteva strapparmiti, ormai non può nemmeno la morte. Tuttavia, per voi, genitori disperati di tutti e due abbiamo una supplica. Non impedite che due, uniti per sempre da un grande amore e dall'attimo estremo, dormano insieme dentro la stessa tomba. E tu, tu che con i tuoi rami vegli, albero, un misero corpo solo, e che adesso dovrai vegliarne due, serba traccia di questo eccidio e produci per sempre bacche abbrunate al lutto, testimonianza di un doppio bagno di sangue. Detto e puntata la spada contro la base del seno, si abbandona sul ferro, tiepido ancora di morte. Però la preghiera toccò gli dèi, toccò i genitori. Le bacche assunsero, appena mature, un colore bluastro, e quel che avanza dei roghi riposa in un'unica urna. Finito il racconto. E dopo una piccola pausa, Leuconoe comincia a dire la sua. Tacciono le altre sorelle. Anche lui, l'astro che con la sua luce tutto controlla, s'è arreso all'amore. Adesso racconto gli amori del sole. Sembra che il primo ad accorgersi dell'adulterio di Venere e Marte sia stato lui, Dio che vede tutto per primo. Contrariato, a Vulcano, figlio di Giunone e marito di lei, denunciò quelle storie di letto nel suo stesso letto. Quello perde la testa e gli casca di mano il lavoro in corso. ma è già che profila in bronzo catene, reticoli, lacci talmente sottili da trarre in inganno la vista. Non c'è filato, non c'è ragnatela appesa al soffitto tra trave e trave più trasparente di quel manufatto, congegnato in modo che all'urto più lieve, alla minima scossa scatti, e ne fascia il talamo tutto a regola d'arte. Quando poi si infilano a letto la moglie e l'amante, il mirabile ritrovato messo a punto dall'arte del becco marito li intrappola avviticchiati nel bel mezzo del coito. Allora il dio di Lemno spalanca di colpo le porte d'avorio e introduce gli dèi. I due lì stanno incollati. Che scandalo! Scandalo che a dèi non troppo severi non dispiacerebbe per niente. Tutti scoppiano a ridere e a lungo girò la storiella da un capo all'altro del cielo. Citerea però se l'è legata al dito e giura vendetta. Chi le ha rovinato un amore segreto, lei lo rovina d'amore. E adesso che ci fai di tanta bellezza, figlio di Perione, e dei tuoi raggi abbaglianti? Proprio tu, che con il tuo fuoco bruci tutta la terra, già bruci d'un fuoco ignoto. Tutte le cose dovresti sorvegliare e non guardi che Leucotoe, e fissi su un'unica fanciulla occhi che devi al mondo. Oggi spunti più presto nel cielo d'Oriente, domani ti immergi nel mare più tardi. Imbambolato a guardarla, protrai le giornate d'inverno. A volte ti eclissi e nei raggi traspare la pena dell'anima tua. Ti abbui e abbuiato atterrisci il cuore degli uomini. Né impallidisci perché la luna interponga il suo disco fra te e la terra. Il colore a questa passione si deve. Non tieni che a lei, non ti attraggono più né Rodo né Climene, né la madre stupenda di Circe, nell'isola Ea, tantomeno Clizia, che bistrattata continuava a sognare a quei tempi d'accoppiarsi con te, torturandosi atrocemente. Quante te ne ha fatte scordare, ma quante Leucotoe, nata dal parto di Eurinome, la più bella fra tutte le donne del paese dei balsami. Ma appena cresciuta, di quanto sua madre tutte vinceva, di tanto lei vinse sua madre. Regnava suo padre, Orcamo, sulle terre degli Achemenidi, erede di Belo l'Antico, di settima generazione. I cavalli del sole pascolano sotto il cielo di Esperia, non l'erba, li ciba l'ambrosia, che nutre i corpi stremati dalle incombenze diurne e li rinfranca per nuove fatiche. Mentre i quadrupedi brucano il loro foraggio celeste e la notte consuma il suo turno, il dio accede alle amate stanze, sotto i sembianti della madre Eurinome, e in mezzo a 12 ancelle vede Leucotoe che gira il fuso a lume di lampada e fila morbidi fili di lana. Poi la sbaciucchia come una mamma sbaciucchia una figlia adorata e dice: «Ho un segreto. Uscite ragazze, non impedite a una madre di parlare a sua figlia a quattr'occhi». Ubbidiscono quelle e lui, senza più testimoni, prorompe: «Io sono chi governa quanto è lungo il ciclo dell'anno, chi tutto vede, chi in terra consente che vedano tutti, l'occhio del mondo, e giuro mi piaci». Lei si spaventa e il tremito le fa cadere di mano fuso e conocchia. Però la paura le dona. Lui, senza andar per le lunghe, riassume il suo vero sembiante e il fulgore di sempre, e lei, con tutto che quel che vede la abbagli e la terrorizzi, senza far troppe storie, alla violenza si arrende. Muore Clizia d'invidia, e sì, che il sole in amore s'era sfrenato con lei e in un accesso di collera contro quell'altra divulga la tresca e la addita a suo padre come una troia. Quello va in bestia, la figlia lo supplica, le mani tende ai raggi del sole. Lui mi ha violentato, io non volevo, ma il padre, spietatissimo, la seppellisce in un fosso profondo, versandoci sopra un monte di rena. Lo spazza via coi suoi raggi, il figlio di Iperione, aprendo un varco al tuo bel viso sepolto, ma tu non potevi più alzare la testa, stroncata dal carico della terra, non eri ninfa che un pallido corpo di morta. Si dice che nulla di tanto straziante avesse più visto dei cavalli alati l'auriga dal rogo del figlio Fetonte. Eppure tenta per forza di raggi, se solo possibile, di restituire calore di vita alle membra gelate, ma visto che il fato si oppone a qualsiasi suo tentativo, profuma, irrorando di nettare il corpo e la fossa ed in capo a un lunghissimo pianto. Tu però toccherai le stelle, dice, tutto imbevuto di celeste nettare, il corpo si strugge e inumidisce la terra del suo profumo. Uno stelo d'incenso dirama pian piano radici per entro le zolle e spiga forando il tumulo con la sua cima. Ma Clizia, benché l'amore potesse scusarne lo strazio la delazione, il dio della luce non volle vederla più, tantomeno fare l'amore con lei, che si consuma da allora nella demenza d'amore, si espone ai temporali, siede notte e giorno all'addiaccio sulla nuda terra, accucciata, scarmigliata la testa nuda, non tocca né acqua né cibo per 9 giorni di fila, alimentando il digiuno di rugiada pura e di lacrime. E non si alza da terra e non fa che guardare il bel viso del dio che passa, seguendone la traiettoria col capo. Raccontano che a quel punto le membra aderissero al suolo, mutando il pallore giallastro del corpo in pallidi steli, mentre la faccia arrossata si coprì d'un fiore tal quale la viola. Così, benché le radici la inchiodino a terra, si gira al sole in perpetuo e, mutata com'è, lo ama sempre. Fine del racconto.